Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, eccoci qua, buonasera a tutti. Ma quel ponte piccolino che sta sulla destra della Gioconda, che si vede lì nel dipinto, c'è ancora? Ce lo possono dire solo le cacciatrici di paesaggi. E poi andiamo da Roberto con la sua domanda sulla simmetria del corpo. Il nostro corpo è simmetrico. Abbiamo due polmoni, però una milza sola. E anche un cuore solo. E infine tinkering, ovvero inventare meccanismi che non servono a niente, ma servono a capire come fare quelli veri. Partiamo! Beh, dopo tanto tempo perso a guardare al centro del quadro, perché non guardiamo quello che c'è intorno? Scusa. Beh, senz'altro. In realtà ci sono un sacco di studi su quelli che sono i paesaggi di queste celebri opere. Adesso in questo momento Federico forse si sta rivolgendo alla celebre Mona Lisa di Leonardo. Beh, però anche altre. E anche altre, ci certamente. Ci sono intorno un sacco di case, castelli. E sembrerebbe che non siano inventati, cioè non siano solo frutto della fantasia. Ma andiamo con ordine, perché abbiamo scoperto, devo dire, non lo sapevamo, che esiste una professione. Esatto. Ci piace chiamare cercatrice di paesaggi. Ecco, in realtà sono due donne, una è qui con noi al telefono, è professoressa associata di geografia fisica all'Università di Urbino, è qui con noi Olivia Nesci. Intanto buonasera professoressa. Buonasera a tutti. Buonasera. L'abbiamo definita così, cercatrice di paesaggi, in realtà fate proprio questo, lei e la sua collega, insomma ricordiamo anche il nome Rosetta Borchia. Che cosa fate? Andate in giro per quali colline, per quali paesaggi, che cosa individuate? Sì, già dal 2006 che io e Rosetta Borchia abbiamo dato origine a questo originale professione che si chiama cacciatrici di paesaggi. In pratica cerchiamo e studiamo i paesaggi che fanno da sfondo alle grandi opere rinascimentali. Diciamo che l'inizio è stato nel 2006, è avvenuto proprio per i paesaggi che stanno dietro al Dittico dei Duchi di Piero della Francesca. Rosetta Borchia, che ha una profonda conoscitrice dei paesaggi del Monte Feltro, ha individuato quella collina che stava sotto il mento del ritratto di Federico. Ecco, lei fa riferimento a Federico, duca di Montefeltro, e la duchessa Borgia, che sono conservati agli Uffizi. Agli Uffizi, esatto, loro. Ah, non sono a Urbino. No, sono purtroppo agli Uffizi, però sono dagli Urbinati, è proprio un'icona, è considerato il nostro quadro. Il diciamo. Vostro quadro. Questi meravigliosi paesaggi sono stati individuati proprio esattamente nelle zone del Ducato d'Urbino. Ecco, infatti il Montefeltro è proprio quella zona, quella zona sì, molto bella collinare che sta nei pressi di Urbino. Ma voi cosa avete fatto? 150 milioni di chilometri in auto? Sì, guardi, abbiamo lavorato per tanti anni, prima quasi come il lavoro del sabato e della domenica, poi invece è diventato vero proprio lavoro e abbiamo cominciato ad analizzare zolla per zolla, lo diciamo, tutto il paesaggio del Montefeltro, che in realtà non è solo l'Urbinate, ma si estende fino all'Emilia Romagna e la Toscana. E cosa trovate? Cosa state trovando? Diciamo che il paesaggio, io sono una geologa, il paesaggio è talmente bello e diverso dal punto di vista geologico che noi pensiamo che tutti quegli artisti del Rinascimento che passavano da queste parti rimanevano proprio impressionati dalla bellezza di questi territori e quindi hanno, diciamo, rappresentato questi territori in modi diversi, con prospettive diverse, con sistemi di rappresentazione proprio differenti, l'hanno rappresentati qui. Certo, mi scusi però, proprio tecnicamente, voi andate a vedere percorrendo i luoghi e avendo l'immagine che dovete ritrovare, usate questo tipo di tecnica o anche altro? Ma quali sono poi gli elementi insomma che ricercate? Gli alberi, le rocce? Allora, la metodologia è particolare perché in effetti questo connubio fra me e Rosetta, diciamo Rosetta è una esperta di paesaggio di storico dell'arte proprio e io invece studio l'evoluzione del paesaggio fisico, quindi il confronto fra di queste due diverse professionalità ha creato questo nuovo tipo di lavoro che io proprio chiamo lavoro, ma il metodo è lo studio del paesaggio, va bene, il riconoscimento proprio dei prodotti profili delle valli, dei monti, di tutto, dei laghi che non ci sono più, dei fiumi che hanno deviato, eccetera. Ma non solo, studiamo le cartografie storiche. Adesso ultimamente ci stiamo attrezzando per fare dei voli con dei droni, perché gli artisti del Rinascimento rappresentavano il paesaggio a volo d'uccello, diciamo a 100, 200, fino a 1000 metri d'altezza. I grandi geni del Rinascimento lo facevano utilizzando la creatività. Noi adesso abbiamo a disposizione la tecnologia. Sì, la creatività, ma anche bisogna pensare che questi pittori non erano solo appunto grandi artisti dell'arte nel senso dipinto, ma anche erano degli scienziati, quindi utilizzavano anche degli strumenti, degli specchi, delle lenti, insomma rappresentavano il territorio anche studiandolo, ecco. Dal punto di vista scientifico, certo. Ecco, ma senti, in alcuni di questi dipinti, anzi in molti, ci sono anche dei castelli, delle case, delle città, come dicevano allora. Quelle robe lì le ritrovate oppure... Forse quello è più facile, o no? È più facile. Vi può dare una traccia oppure non c'è più niente? Guardi, contrariamente a quello che si può pensare, i castelli, le città non si sono conservate così bene in 500 anni come il territorio, come il territorio fisico, perché il territorio fisico ha una sua evoluzione, cambia e noi riusciamo a capirlo. Spesso l'antropizzazione di un territorio che era... anche quella volta, ogni cima di monte c'era praticamente un castello, una torre di avvistamento. Certo. Ecco, noi su quello studiamo l'evoluzione storica attraverso le mappe antiche e anche attraverso la documentazione, proprio gli archivi storici, le biblioteche, eccetera. Gli archeologi in questo caso ci aiutano, gli archeologi dell'Università di Urbino hanno dato una mano. Molto. Beh, certo che c'è veramente una multidisciplinarietà e anche tantissimi strumenti a disposizione, insomma, che dovete un po' incrociare e che avete utilizzato anche per il quadro più celebre del mondo, il quadro dei quadri, che è appunto la Monna Lisa di Leonardo. Ecco, a questo proposito abbiamo tante cose da dire, nel senso che voi siete riusciti a individuare quello che è il paesaggio, poi adesso le daremo modo di raccontarlo, e avete pensato di divulgarlo, di raccontarlo attraverso un libro. Ecco. Allora, dunque, noi siamo soliti dire, io e Rosetta, che il paesaggio della Gioconda proprio non lo cercavamo, nel senso che l'abbiamo trovato, non dico per caso, un fattore C, il caso non esiste, diciamo, nel senso che ormai aveva la nostra conoscenza del territorio era tale che a un certo punto, studiando i paesaggi di Piero della Francesca, ci siamo ritrovati nell'alta Valmarecchia di fronte inequivocabilmente al paesaggio della Gioconda. Da lì proprio il primo tassello, il famoso ponte, no? Si vede la rupe, il fiume, il ponte nella destra della Gioconda, ecco, noi ci siamo trovati proprio di fronte a quel paesaggio. Beh, diciamo che ci vuole un occhio esperto, perché sembra, lei lo racconta in maniera molto semplice, probabilmente voi appunto ad un occhio esperto lo individuate facilmente, però per chi insomma ha in mente il dipinto non è che sia proprio così nitido. No. Ma avete ritrovato il ponte? Mi scusi, però. Che appunto, volevo proprio, si ricollegava un po' con l'antropico di cui abbiamo parlato precedentemente, perché il ponte, che molti sostengono che sia in varie parti d'Italia, sapete, questo ponte in effetti da noi non c'è. Non c'è perché c'è la rupe, c'è il fiume, c'è tutto il contorno del paesaggio, però questo ponte non c'è. In effetti il Marecchia, che è il fiume che diciamo è interessato, il fiume che abbiamo, che attraversa la destra della Gioconda. La Valmarecchia è sempre nel Montefeltro, giusto? Sì, sempre nel Montefeltro. Ecco, questo fiume, che il Marecchia dice la parola stessa, che è un piccolo mare, nel senso che è soggetto a grosse piene, e storicamente ponti sono tutti caduti. Però c'è traccia di un possibile fabbricato, oppure non c'è la traccia del fabbricato, ma c'è la viabilità, la vecchia viabilità antica che finisce proprio in quel punto, poi si ricollega con la strada del versante opposto, quindi lì comunque un passaggio c'è, sera. E noi sappiamo anche che Leonardo è stato in questi territori, insomma. Certo, quindi, Leonardo attraversava la Valmarecchia molto spesso, che se ne dica, perché noi abbiamo documenti sicuri che lui era in queste zone nel 1503 con Cesare Borgia, il Valentino. Lui era sovrintendente delle fortificazioni, quindi lui girava costantemente facendo continuamente bozzetti, disegni, eccetera, di cui noi tra l'altro ne abbiamo trovati ben 5. Ecco, voi raccontate tutta questa bella storia davvero di lavoro che avete svolto in questi anni in questo libro che si chiama Il paesaggio segreto della Monna Lisa. Sì. Lo state facendo in un modo particolare, nel senso che il libro per ora non è nelle librerie, state chiedendo insomma alla rete di aiutarvi attraverso il crowdfunding cosiddetto, quindi attraverso la ricerca di fondi, attraverso le piccole donazioni che vengono dagli utenti anche della rete o dagli amanti di quello che è l'oggetto di questo libro, giusto? Sì, sì, abbiamo tentato questa esperienza che tra l'altro è molto comune per esempio negli Stati Uniti e anche in Europa. In Italia non è molto lanciato ancora, però noi speriamo molto in questa, nella, diciamo, del finanziamento della base, oltretutto ai nostri finanziatori noi daremo in cambio qualcosa, quindi il libro o in formato ebook oppure in formato cartaceo, certo, oppure tanti altri piccoli premi che daremo a, va bene, dai, allora proviamoci. Lanciamo il sito. Facendo una semplice ricerca su Google e digitando Montefeltro vedute rinascimentali, ecco, viene subito fuori il nostro sito, dove all'interno si può andare al sito del crowdfunding. Va bene, anche noi cercheremo di diffonderlo attraverso il nostro sito, attraverso il nostro lei blog. Lei sa come finirà questa roba, che da tutti i paesini dove magari hanno anche delle croste tremende chiederanno di individuare il paesaggio, vi arriveranno un sacco di commesse. Sì, magari, magari, ancora all'inizio è un po' faticoso, però ecco, vabbè, adesso stiamo cercando di distribuirlo in modo globale in tutto il mondo, insomma. Va bene, grazie, davvero buon lavoro e se ci sono novità noi siamo qui a disposizione per raccontarle. Benissimo, la ringrazio voi. Buona ricerca. E arrivederci a tutti. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi devo parlare di Tinkering e vi porto al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Tinkering, ma senza l'H, che rimanderebbe al verbo inglese think, pensare, ma il tinkering c'entra molto con il pensare. Qui con me questa sera c'è Maria Santudacchi. Buonasera Santudacchi. Buonasera. Direttrice dei servizi educativi del Museo della Scienza e della Tecnica. Allora, Tinkering è scritto proprio T-I-N e non c'è l'H di think, pensare. E lì da voi è il nome, c'è anche proprio una bella insegna luminosa, come se fosse un locale, di un laboratorio. Come riusciamo a definire? Intanto facciamo una cosa, traduciamolo, perché tinkering dice qualcosa in inglese, no? Sì, tinkering in inglese vuol dire trafficare, armeggiare, provare, non c'è un termine esatto in italiano e per ciò abbiamo anche scelto di mantenere quello inglese. Forse quello che si avvicina di più è lo smanettare, no? Smanettare, un pochettino, esatto. Sì, facendo tanto bricolage ma molto di più e infatti lo capirete adesso mano a mano che ci entriamo. Tinkering è un laboratorio che avete aperto lì al Museo della Scienza e della Tecnologia. Ci sono esperienze in altri paesi e questa è la prima da noi? Allora, ci sono esperienze in altri paesi nel senso che chi ha ideato e messo insieme in modo strutturato l'approccio Tinkering è l'Exploratorium di San Francisco, che da sempre è stato un'istituzione, un museo pioniero nel campo della comunicazione della scienza. Il suo staff, in collaborazione con l'MIT di Boston, ha condotto diverse ricerche sull'apprendimento, sull'esperienza delle persone con la scienza, e il metodo Tinkering è appunto è un approccio, è un metodo, è un modo di esplorare le cose, il modo di esplorare il mondo che in questo momento, diciamo, riesce a rispondere a tante necessità. E infatti adesso ci arriviamo, stiamo anche creando una certa suspense, devo dire. Dico subito che se andate al blog di Mebius troverete anche dei link a dei video che abbiamo fatto e che naturalmente servono a far capire molto bene quello che stiamo per dirvi. Però insomma, io sono venuto lì. E che cosa ho visto? Parto da qui, Santo Danchi. Ho visto delle persone alle quali voi avete dato in mano dei pezzetti di legno, una scatolotta, del cartone, delle manovelle, e sostanzialmente gli avete detto: fate qualcosa che gira, un meccanismo. Ma che cosa deve servire? Non deve servire a niente. Deve essere un meccanismo in generale, per esempio. Ed un'altra cosa analoga è che gli avete dato delle pilette, delle lampadine, anche lì dei pezzi di legno, delle cose, e gli dite: facciamo un circuito. Ma che cosa deve servire? Non deve servire a niente, facciamo un circuito. La gente all'inizio si sorprende, poi invece si appassiona tremendamente. È questo il tinkering. Esatto, è questo. Ci sono diverse cose su cui il tinkering si costruisce. Prima di tutto c'è l'idea della progettazione, che io ho un'idea mia personale, soggettiva, e devo percorrerla, perseguirla per arrivare a costruire un oggetto. Un oggetto che si muove, che vola, che scrive, come mi hanno detto quando sono arrivata a Tinkering Zone, appunto gli educatori del museo, però che non ha un risultato predefinito. Ma parte da una mia intenzione, e questa è la prima cosa. Il secondo concetto è il concetto del fare, del making, che tanto sta prendendo spazio questi anni a livello internazionale, che non è una cosa nuova, perché l'essere umano ha sempre fatto, ha sempre costruito, ha sempre esplorato con le mani, però in questo caso making rappresenta anche tutto un modo di produrre, tutto un modo di decifrare la scienza e la tecnologia. E il terzo elemento su cui Tinkering si costruisce è ovviamente l'elemento scientifico, anche se non sembra, c'è una dimensione scientifica molto importante. Devono prendere decisioni scientifiche, e tutto questo insieme li porterà a essere estremamente immersi in questo processo di costruzione. Sì, sì, e questo io proprio l'ho visto con i miei occhi. In un certo senso potremmo dire, facevo prima l'esempio dei meccanismi. Allora, ci sono i meccanismi applicati a varie situazioni, no? Insomma, quando tiriamo su una tapparella c'è qualcosa che gira, c'è una manovella, no? Ecco, ok. Però in fondo, come dire, esistono dei meccanismi a priori, il meccanicismo, non saprei come definirlo, che è quello sul quale voi lavorate, no? È una specie di teoria astratta e concreta del costruire le basi delle apparecchiature, dei funzionamenti. Sì, ci sono due teorie, diciamo, su cui noi ci basiamo, non solo noi, ma la teoria del costruttivismo, nel senso che vuol dire che la conoscenza non esiste da qualche altra parte fuori di noi, ma è un processo che ogni persona costruisce partecipando attivamente in un'attività. E l'altra teoria è quella del costruzionismo, che parla della importanza di fare delle cose, di costruire degli oggetti attraverso questa costruzione, quando questo tipo di esplorazione, di attività, porta a una comprensione e a possedere poi delle nuove nozioni. Certo. Io quello che ho visto è che arrivano tipicamente le famiglie con dei figli intorno ai 12, 13, 14 anni, e poi a un certo momento quello che succede è che si appassiona il padre, la madre, tutti, nonne, zie, e davvero si trovano lì a costruire. L'altra cosa molto interessante che ho visto è che si parla tanto, perché ce n'è motivo, di una differenza di approccio di genere alla tecnologia, anche un'emarginazione, no? Delle donne in questa direzione, ma lì ho visto ragazzine appassionate in un modo impressionante a costruire rotelle e circuiti elettrici. Esatto, perché quello che guida le persone, diciamo, e le aiuta a immergersi è proprio questo percorso personale e questa partenza dalla loro idea. C'è una altissima creatività che viene coinvolta in questa attività, e possiamo dire che questa cosa consente a ognuna delle persone, quindi anche le donne che potremmo non voler vedere proprio naturalmente in altre attività scientifiche, a trovare la loro dimensione. Quindi ciascuna delle persone, per quanto piccolo, per quanto possa ritenersi non esperta di scienza, trova il suo percorso e intraprende un suo viaggio, dove ci sono momenti di concentrazione, di frustrazione, che però dopo diventa sfida, anche quella, di andare a ad arrivare a un risultato che ti dà una grande soddisfazione, che però è il punto di partenza per andare a provare altre cose o andare a fare cose più difficili. E quindi c'è sempre questo circolo virtuoso che si crea e che fa le persone entrare e non voler uscire dal proprio progetto finché non arrivano proprio alla catarsi, se vuole, al quel momento di soddisfazione finale. Grazie per questa conversazione. Ricordo ancora, c'è questo primo esperimento in Italia, è il laboratorio Tinkering al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. L'idea è che se ne possano creare anche altri nel paese, in altri punti. Senz'altro. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Io, Chiara, ti preferisco con due occhi. Beh, decisamente. Se ne avessi uno al centro, che tremendo. E con un naso mi preferiresti con due? Con due, ma magari due nasi tenterei. Vabbè, insomma, però una bocca, lo so, questo sì, lo so. Sì. Ecco. Allora, in realtà questa introduzione così simpatica, ecco, introduce la domanda del nostro ascoltatore Roberto, sentiamo. Osservando la trasmissione di Fabio Fazio, ho notato una particolare simmetria nella colorazione della barba, cioè la parte sinistra aveva gli stessi tipi di posizione dei colori bianchi e nero rispetto alla parte destra. Voglio sapere se qualcuno ha mai studiato questo tipo di simmetria bilaterale e anche in alcuni punti del corpo dove questa simmetria invece non viene rispettata. Grazie. Risponde? Risponde Carlo Alberto Redi, che è docente di biologia dello sviluppo all'Università di Pavia, che è stato nostro ospite altre volte, quindi bentornato Carlo Alberto Redi. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Cosa rispondiamo al nostro Roberto, che diciamo la sua curiosità nasce dall'aver osservato la barba di Fazio singolare, che è sì, simmetrica, e in realtà ci sono tante altre cose che a noi paiono simmetriche. E Roberto prima di tutto ci chiede: c'è una spiegazione genetica, Redi? Beh, indubbiamente c'è una spiegazione genetica e diciamo più in generale spesso osserviamo degli organi asimmetrici, però dobbiamo ricordarci che questi si sviluppano sotto il profilo embriologico come forme simmetriche, cioè sia a destra che a sinistra, poi si fondono. Si può pensare appunto alla condizione del naso, si può pensare alla condizione del cuore. Tutti gli organi, diciamo, impari si formano in questa maniera. Ce lo spieghi meglio, Redi? Cioè, sono un corpo unico, ma che in realtà è simmetrico anch'esso, una sì, cosa così? Sì, esattamente. Cioè, sono due parti, e basta pensare al cuore. Sono due atri e due ventricoli, destro e sinistro. È chiaro che il cuore è un organo unico, ma nella sua formazione se ne forma una parte sulla destra, una parte sulla sinistra e poi si fondono. Lei quindi si sta riferendo a quegli organi che a noi sembrano unici, esatto, e lei dice, mentre invece esatto, i due occhi nascono come due occhi. D'accordo, però ci sono forme patologiche, la ciclopia accade che si portano e si fondono e purtroppo nasce qualcuno con un solo occhio nel centro della fronte. Sono fenomeni, diciamo, biologici dell'embriologia, ma qui la domanda dell'ascoltatore è più intrigante, perché fa riferimento, che ne so, al mantello delle zebre o alle colorazioni delle ali delle farfalle. Sì, ai cosiddetti aspetti fenotipici, cioè quelli che noi vediamo, sì, ecco. Certo, certo, sono aspetti fenotipici, però singolari, cioè una colorazione, ad esempio, come quella delle zebre o come quella della barba. E il meccanismo è noto, cioè nel caso della barba viene a mancare la melanina, che è quella che dà il colore al pelo, in alcuni peli, in alcune zone, e quindi chiaro la vediamo bianca. La domanda è: perché come simmetrica mai in quella zona e non in un'altra zona? E questo fa riferimento a degli aspetti che possono sembrare controintuitivi della scienza, dice ma se accade di lì deve accadere anche di lì. No, questo no, nel senso che c'è una alta variabilità tra una cellula e l'altra anche dello stesso tessuto, che formano lo stesso tipo, diciamo, di quello che noi vediamo, della pelle ad esempio o dei peli. Ogni cellula, dei milioni di miliardi che ci compongono, è diversa dall'altra. Lì chiaramente ci saranno delle cellule che ricevono meno stimolo dagli ormoni androgeni, che sono quelli che mantengono la piccola parte del bulbo pilifero in attività e per cui perdono la melanina e si vedono bianchi. In quel caso per la barba funziona, però ad esempio alcune macchie dovute appunto alla carenza di melanina, oppure penso ai nei, ecco, quelli non sono simmetrici ad esempio. Ma assolutamente no, e fanno riferimento appunto alla alta variabilità che esiste tra ogni cellula anche dello stesso tessuto, il che è anche, se si vuole, abbastanza intuitivo. Sì. Ogni cellula ha vicino, se immaginiamo di fare la metafora del muro, del mattone, ogni mattone ha vicino altri mattoni e l'architettura di queste relazioni è diversa. Immaginiamo che arrivino dei nutrienti, degli androgeni, dei metaboliti, gli ioni calcio, quello che si vuole. C'è eterogeneità e l'eterogeneità molecolare la vediamo fenotipicamente espressa in un carattere. Sì. Vale la pena di ricordare che Turing, di cui ora vediamo in giro il film molto volentieri, questo genio non solo ha decriptato la macchina Enigma che usavano i nazisti per i messaggi, ma è stato un grandissimo biologo che ha istruito generazioni, noi oggi lo insegniamo a lezione, capace di spiegare proprio con un modello molecolare come mai alcune cellule avranno determinate risposte ed altre no. Questo è fantastico, perché ci sono nel corso dell'embriologia e poi dell'adulto dei punti in cui si producono delle sostanze che fungono da stimolante un certo processo, ad esempio produzione di melanina, ed altre che producono delle sostanze che inibiscono, perché non se ne può produrre a tonnellate. Sono meccanismi evolutivi di questo tipo. Turing ha proposto un modello che ancora oggi insegniamo a lezione, quindi veramente un genio. Senta Redi, però poi ci sono, come dire, le grandi simmetrie, cioè il braccio destro, il braccio sinistro, la gamba destra, gamba sinistra. Lì com'è che è messa la cosa? Cioè si segue la stessa logica? Molto interessante, molto interessante. Ecco. Cioè come si evolve la simmetria bilaterale? Perché molti organismi, se si guarda sul pianeta, hanno una simmetria raggiata, cioè tutto intorno è uguale. Pensiamo ai ricci, non so, ai ricci marini. Esattamente, insomma, quasi tutti organismi di questo hanno una simmetria raggiata. Una delle grandi domande della biologia evolutiva e dell'embriologia è come si origina la bilaterale, la simmetria per cui puoi tagliare in due e guardare allo specchio una delle due parti e vedi l'altra. Questa è una delle grandi domande, ci sono delle ipotesi, ci sono delle idee che confortano alcune idee, altre no. Può essere importante chiedersi qual è il vantaggio di una simmetria bilaterale. E in genere la simmetria bilaterale è associata con il movimento. Gli organismi sedentari, sessili, pensate che ne so alle madrepore o a organismi di questo tipo, hanno una simmetria raggiata. Questo permette chiaramente una maggiore perlustrazione dell'ambiente circostante per trovare cibo o per trovare compagni sessuali, perché un organismo che sta fermo a vantaggio a esplorare tutto intorno. Corrisponde un po' anche appunto all'uscita dall'acqua, alla colonizzazione della terraferma, insomma, grandi, gli animali correlazioni di questo tipo, bravo, esatto. Ecco, sempre restando nel regno animale, anche negli animali c'è una grande simmetria. Pensiamo ad esempio al palco dei cervi, appunto più è simmetrico, più è grande, più le femmine insomma si predispongono alla riproduzione. Ecco, anche nel regno animale questo ha un grandissimo significato, proprio dal punto di vista della cosiddetta fitness, cioè dell'attività di riprodursi e avere quindi una prole sana. Sì, ecco. Come segnali. Certo, esattamente, sono segnali in questo senso. Tutte le decorazioni, tutte le grandi, le piume del pavone, no? Famose, studiate dai grandi biologi dei secoli passati, non c'è dubbio, sì. E la simmetria esterna in qualche modo rappresenta anche la simmetria interna, insomma, l'abbiamo detto un po' per tornare a quello che dicevamo all'inizio. Sì, a grandi linee è in questi termini. Certo che l'interessante, ed è quello studiato oggi dalla biologia dello sviluppo, la nuova embriologia, diciamo, è quali sono i meccanismi molecolari che portano all'acquisizione della forma, che è una delle domande più importanti della biologia, perché è questo che dobbiamo chiederci: quali sono i meccanismi che dicono a una cellula fermati, non andare avanti, in modo da dare quella costituzione, quella forma, e poi verranno le colorazioni e tutto, perché è una domanda cruciale, perché fa riferimento da un lato sempre al modello di Turing della produzione di sostanze che attivano e sostanze che bloccano la moltiplicazione cellulare e la loro differenziazione, ma dall'altro certamente c'è ancora molto molto da studiare e da fare. Pensate la rilevanza di una risposta di questo tipo per lo studio dei tumori. Immagino, perché lì abbiamo appunto questa proliferazione incontrollata. Certo, una cellula che è ferma, che riacquisisce questa capacità embrionale di moltiplicarsi e differenziarsi, certo. È il tumore. La cosa sorprendente quando si parla dei meccanismi del vivente è che qui abbiamo qualcosa di estremamente complesso come funzionamento. Il fatto però, appunto, come dicevo poco fa, sorprendente è che comunque questa complessità è stabile, perché nascono miliardi di individui e sono tutti tendenzialmente simmetrici, al 99,9%. Perfetto, e sarà quello 0,000 di devianti a fornire il materiale per l'evoluzione, certo. Perché se uno di questi piccoli devianti è più adatto a un ambiente che è cambiato, si riprodurrà di più, e così parte il meccanismo e il paradigma darwiniano dell'evoluzione per selezione del più adatto. Ma il più adatto qual è? È quello che emerge per una mutazione. Mutazione. E il più delle volte la mutazione è negativa e sarà selezionata contro. Ci starà quella volta che la mutazione è positiva. Sarà vantaggiosa, e quindi. Certo. Il grande interrogativo, Redi, è anche questo: cioè, in realtà, se noi avessimo tre braccia, sarebbe molto più comodo. Saremmo molto più produttivi quando si va al supermercato. Invece ne abbiamo. È una domanda di grande rilievo e fa riferimento, se pensate, ai 100 piedi e ai 1000 piedi. Già. Non v'è dubbio. Perché l'acquisizione, cioè il mantenere gli arti in questa maniera, due superiori e due inferiori, deriva però da una disposizione ereditaria di geni, e questo è, secondo me, c'è una spiritualità enorme in queste considerazioni scientifiche, è basato sugli stessi geni che stabiliscono che il centopiedi ha due paia di arti per ogni metamero, il millepiedi ne ha molti di più, noi ne abbiamo uno e uno, ma i geni che governano queste disposizioni sono gli stessi, solo che saranno silenti per un periodo più o meno lungo, attivi per un periodo più o meno lungo, eccetera, eccetera, eccetera. Però è fantastico, è meraviglioso se uno ci pensa. Abbiamo in comune la stessa sequenza di DNA che dice cosa fare. Cambia il regista, cambia l'altra parte di DNA che gli dice accenditi, spegniti. E qui entriamo in una complessità infinita. Bellissimo, davvero affascinante. Grazie davvero, Redi. Innovazione della barba di Fazio. Fantastico. Siamo partiti da lì. Buon ascolto ancora agli ascoltatori e grazie a voi. Ricordiamo agli ascoltatori, a proposito di simmetria, che da lunedì sul nostro blog metteremo qualche immagine in cui faremo vedere che, ad esempio, un volto sembra simmetrico, ma in realtà non lo è del tutto. Anzi, qualora fosse simmetrico, sarebbe davvero mostruoso. Mostruoso. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao!